Incontri di Gianfranco Fabi. Con le note della Sarabanda di Handel iniziamo il nostro incontro di oggi. Buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio a quanti ci ascoltano. Buongiorno e buona domenica a Paolo Bertaccini Bonoli. Buongiorno a lei e a tutti voi. La Sarabanda di Handel, come mai questa scelta, come mai questo motivo così noto, ma che cosa le ricorda? Il notissimo Kubrick la scelse anni addietro come colonna sonora portante del suo Barry Lyndon, per i temi che in genere si affrontano in questa trasmissione, che hanno molto a che vedere con la natura dell'essere umano, della persona. Il film Barry Lyndon è proprio uno sforzo di comprendere questa figura metaforica di Napoleone, quindi di tutti noi, le nostre ambizioni, il modo in cui ci confrontiamo col mondo, come ne rimaniamo prigionieri, come ce ne liberiamo. La Sarabanda fa davvero da buono sfondo per questo tipo di sforzo. Per un mondo che è sicuramente complesso, e Paolo Bertaccini Bonoli ha tanti interessi in questo mondo ed è qui per parlarci di queste sue attività, ecco, da dove cominciamo? Qual è la cosa a cui non rinuncerebbe se le chiedessero di fare una cosa sola nei prossimi anni della sua vita? Quella a cui non rinuncerei, insomma, è davvero difficile. Forse così per fare anche un po' di provocazione, ma nel senso appunto nobile del termine, lo sport. Lo sport. Lo sport, ma lo sport praticato, ma non solo lo sport praticato. Lo sport o è praticato o, con tanto rispetto e considerazione per tutti coloro che lo osservano, ne sono partecipi, non è. E dunque... Quale sport? Ma ci sono delle passioni, ma non vogliamo appunto gerarchizzare troppo. Certo, nei manuali di sport, favorita certamente dal ordine alfabetico, l'atletica leggera viene sempre per prima. Beh, abbiamo vissuto nelle settimane scorse le Olimpiadi con scarsa fortuna per gli italiani, soprattutto in atletica leggera, ma comunque lo sport è sempre qualcosa di affascinante. Tra l'altro lei è responsabile della sezione dello sport di Transparency International, se non sbaglio, e allora questo ci dà l'occasione di parlare di una di queste attività, che è l'impegno in Transparency International. Che cos'è e come si muove? Transparency International è in primo luogo il principale network internazionale di lotta alla corruzione, nato a metà degli anni 90, non casualmente poco dopo la caduta del muro di Berlino, per iniziativa di alcuni funzionari della Banca Mondiale, che diciamo si resero conto che era importante attivare questo tipo di azione civile. La sezione italiana è affiliata dal 96. E c'è un gruppo di professionisti, di persone soprattutto provenienti dal mondo dell'economia, della giurisprudenza, dell'educazione nelle scuole, che è attiva per promuovere iniziative di varia natura, sia preventiva sia di contrasto a fenomeni di corruzione di varia natura. Ecco, la corruzione in Italia purtroppo è una realtà con cui avremo a che fare ancora per lungo tempo, anche se dobbiamo sperare che si possa in qualche modo combattere. Come si può combattere? Indubbiamente l'opera di Transparency è soprattutto culturale, soprattutto di impegno, diciamo così, sociale e politico. Che cosa si può fare su questo fronte per attivare non solo le coscienze, ma anche l'operatività delle istituzioni? Per fortuna si può dire che si sta già facendo molto. Forse come premessa è utile usare un po' una specie di semplificazione, come spesso è, gli slogan aiutano, per comprendere cosa è la corruzione oggi nel mondo. Se fino a qualche decennio fa la corruzione in fondo era un fenomeno sempre da combattere, ma in qualche misura fisiologico dei processi economici, oggigiorno è diventato una vera e propria piaga che destabilizza proprio i funzionamenti, e quindi non sono per fortuna pochi coloro che già sono consapevoli e attivi nel combatterla. I fronti sono poi in buona sintesi due. Uno, la diffusione culturale della consapevolezza che la corruzione non è più un fenomeno con cui si può convivere cercando di circoscriverlo, ma bisogna invece significativamente, se non debellarlo, ridurlo al minimo indispensabile. Quindi è una sfida che tutti noi dobbiamo fare, e questo è un primo passaggio importante. Il secondo invece è anche una sfida pratica di strumenti normativi, educativi, nel senso proprio di azioni di formazione che mettano a disposizione strumenti, di tipo anche legislativo internazionale. Su questi fronti Transparency si è impegnata. Ecco, tra l'altro proprio sul fronte delle iniziative concrete proprio Paolo Bertaccini Bonolli è stato ed è protagonista, animatore del premio Giorgio Ambrosoli, un premio che ha avuto quest'anno, nella primavera scorsa, la sua prima edizione, è stato premiato Mario Sarcinelli e che promette appunto di avere tante altre edizioni annuali. Quindi anche questo impegno con la creazione di un premio sostenuto anche dalla famiglia Ambrosoli proprio per voler dire che il maggior contrasto alla corruzione è in fondo nell'integrità personale, nella volontà di portare anche degli esempi positivi sul fronte della vita sociale. Siamo noi esseri umani, sia che uno la voglia vedere da un punto di vista di cultura cristiano-cattolica, di cultura laica, di altre culture con cui ci stiamo confrontando nell'ambito della globalizzazione, alla fine le sfide sono sempre degli esseri umani nei confronti delle situazioni e dei propri simili. Giorgio Ambrosoli è uno dei, per fortuna, non pochissimi esempi che l'Italia ha avuto nel dopoguerra di persone che hanno saputo misurarsi con questo tipo di sfida, e quindi lo si è ritenuto, a partire dalla sensibilità dei fondatori di Transparency International, per prima la presidente Mara Brassiolo, ma anche tutti coloro che appunto l'hanno affiancata in questi anni e molti altri che non fanno parte dell'associazione ma che si sono ritrovati nel comitato promotore. Piace citare Ernesto Savona di Transcrime, Mario Carlo Ferrario, personalità del mondo della finanza particolarmente in vista, e molti altri, come figura che consenta di vivere in positivo queste tematiche, e quindi non solo in termini appunto di contrasto ma anche di valorizzazione di quei fenomeni virtuosi che sono per fortuna molto presenti. Il premio www.premiogiorgioambrosoli.it è uno strumento a disposizione degli italiani che poco a poco stiamo radicando per evidenziare e valorizzare quelle pratiche virtuose di tutela dello Stato di diritto. Ecco, pratiche virtuose che dovrebbero essere la normalità in un paese civile e che ogni tanto richiedono però anche di fare degli atti eccezionali, speriamo non atti che portino fino al martirio, che vogliamo ricordare appunto Giorgio Ambrosoli, però ecco, indubbiamente spesso all'interno della società la tendenza un po' al compromesso, al lasciar fare, al quieto vivere, alla proroga, al mandare avanti le cose senza appunto poi il rispetto delle procedure, delle leggi, delle regole che ogni tanto possono sembrare un paravento eccessivo, ecco, forse riescono in fondo a creare una società che poi non è giusta per nessuno, quindi anche questa virtù civile va propagandata e vanno portati degli esempi positivi. In questo ce ne sono però in Italia di esempi positivi. Ce ne sono molti ed è difficile oggi dire quale possa essere quel corretto punto di equilibrio fra ottemperamento alle leggi e capacità in qualche modo di muoversi nell'autodisciplina, nell'autoregolazione. Non è mai semplice questa sfida. Certo, una risposta va trovata e dunque in fondo noi italiani abbiamo anche questa consuetudine a misurarci con sistemi normativi fragili, incerti, e quindi possiamo dire la nostra, perché a livello individuale siamo apprezzatissimi nel mondo, si avvalgono dei nostri servizi, si avvalgono delle nostre professionalità, ci coinvolgono per la nostra reputazione, per la nostra affidabilità, quindi gli esempi positivi sono davvero tantissimi e benvenga che Giorgio Ambrosoli possa essere appunto a disposizione di questo percorso. Ecco, in questo è anche una sfida, perché anche appunto pensando appunto a livello giornalistico molto spesso è quello che non va che fa notizie più che quello che va bene, quindi anche l'essere sollecitati appunto a realizzare un premio come il premio Giorgio Ambrosoli, a valorizzare quello che va bene, a dare le buone notizie, forse fa scoprire che anche l'Italia è piena di buone notizie che non aspettano l'ora di essere portate alla luce, quindi anche un merito di questo premio nelle prossime edizioni potrà essere questo, dare un premio a qualcuno ma anche mettere in luce tante altre possibilità, tante altre possibili candidati a questo premio. Di premiati ce n'è uno, ma di premiandi ce ne sono forse tanti. In questo il mondo dell'impresa è protagonista. Essendo protagonista, va detto che il mondo di Confcommercio, di Rete Impresa Italia, dell'impresa diffusa, ha dimostrato di voler essere vicino a questo premio, lo sta dimostrando, e questo significa Confindustria, come sappiamo, molto attenta a determinati temi in Sicilia da anni. Vuol dire che il mondo dell'impresa fatta di individui è coinvolto in prima persona in questa sfida della legalità, dello Stato di diritto, e si è sicuramente in grado come aziende di dare un contributo. Ancora con le note della Sarabanda di Handel riprendiamo il nostro incontro con Paolo Bertacini Bonoli. Ecco, Paolo Bertacini Bonoli ha anche altri interessi, cioè, che partono proprio da questo impegno sociale, da questo impegno verso una società più trasparente, più giusta e anche più legata e attenta all'ambiente. Beh, l'ambiente può essere una banalità, uno slogan di quelli in fondo consumati da questa nostra società ipermediatizzata, oppure può essere un concetto, la physis, un concetto da cui ripartire, a cui ritornare, cercando di trovare un punto di equilibrio fra quelle che sono state le straordinarie conquiste della modernità, della modernizzazione, non solamente europea ma anche cinese, indiana, di altre aree del mondo che hanno, diciamo, sviluppato comunque attività e percorsi industriali e preindustriali, e naturalmente quella che era una società del passato che era più in grado, per una serie di ragioni che adesso non stiamo qui a esaminare troppo nel dettaglio, di trovare degli equilibri, degli assetti che fossero appunto non squilibrati. Va detto che ci sono state vere e proprie estinzioni anche nel passato, è nota la vicenda dell'isola di Pasqua, per cui non è che l'essere umano in passato sia sempre stato così in grado di vivere in armonia con il suo intorno, quindi assumiamo consapevolezze ma non colpevolizziamoci troppo. Ecco, però dei problemi ci sono, dei problemi di gestione dell'ambiente, di gestione responsabile, tanto che il green, il business green sta diventando qualcosa che si sta affermando. C'è quasi un contrappasso, forse si sta facendo troppo business anche sull'ecologia? Bell'interrogativo, viene in mente Antonio Serra, non notissimo ma autore di Nathan Never, autore soggettista e autore di Nathan Never, il personaggio dei fumetti che è protagonista di un mondo sempre più tecnologico, sempre più in grado di dare risposte ai problemi e mai in grado di risolverli. E quindi questo è forse uno dei rischi principali della green economy. La green economy è per un verso la risposta dei problemi attraverso soluzioni tecnologiche, rischia di non affrontarli nella loro radice. Allora, qual è l'iniziativa in cui è coinvolto adesso Paolo Bertacini Bonoli? Beh, lì una pensata anche lì, tornando al mondo delle aziende, che sono protagoniste della globalizzazione e della ridefinizione in fondo dei nostri assetti di convivenza, perché è dall'impresa, dalla capacità di fare impresa, che si riesce a costruire poi soggetti sociali. E lì la Siemens, da qualche anno, sta sviluppando dei progetti e coinvolgendo sempre più altre aziende di promozione di azioni da parte della società civile volte a migliorare, diciamo, l'ambiente economico in cui le aziende operano, perché hanno delle responsabilità le aziende, ma non sono le uniche, ovviamente, non si opera nel laboratorio. E lì c'è un progetto in Italia, Green Social Market, anzi Green Clean Market, mi correggo, nel quale proprio coinvolgendo il sistema delle camere di commercio, il sistema università, con un tavolo di lavoro pubblico-privato denso davvero di presenze qualificate, sta attivando processi volti a prevenire il più possibile reati economici di varia natura nella green economy, proprio perché la distorsione dei mercati per segmenti quali la diffusione delle energie non rinnovabili, la logistica e la mobilità delle merci e delle persone, le nuove tecnologie, ecco, reati economici in quel contesto, distorsioni dei mercati in quegli ambiti hanno degli effetti sociali gravissimi di medio e lungo periodo, per cui il progetto si prefigge di prevenire queste distorsioni. Ecco, distorsioni che si possono appunto verificare molto spesso anche attraverso l'effetto della politica, degli incentivi, del fatto di valorizzare in maniera fittizia delle fonti di energia che poi a lungo termine si dimostrano inefficaci o incapaci di rispondere veramente alle necessità. Quindi mettere appunto in gioco un vero equilibrio ambientale non è certamente facile. Non è certamente facile, ma è in fondo indispensabile. Quindi un richiamo costante e convinto appunto alla necessità che le aziende, le imprese siano non solo di nome ma anche di fatto responsabili verso un ambiente che è anche fatto che è anche loro interesse, poi, perché muovendosi bene nell'ambiente, in un ambiente non ostile, possono certamente affermare meglio i loro valori. Si tratta di creare un circolo virtuoso, non è una cosa facile, Paolo Bertaccini Bonoli. È difficile, ma è il compito che ci tocca. Non era molto più semplice anni e anni addietro cavare delle vigne da terreni incolti, non era molto più semplice attrezzarsi con dei navigli per superare interi oceani, quindi tocca alla nostra generazione, ciascuno col suo operato quotidiano, trovare questi nuovi equilibri. Non possono non essere trovati perché non c'è altra strada. Ecco, non si tratta di nascondersi dietro a delle interpretazioni della realtà. Il problema ambientale è un problema ormai scientificamente provato, dimostrato, il surriscaldamento, la necessità appunto di porre dei limiti, di porsi degli obiettivi che siano sicuramente razionali. L'uomo ha la possibilità tecnologica, lo dicevamo prima, di risolvere alcuni problemi, ma si tratta di inserire questi elementi in una politica ambientale che sia corretta. Ecco, in questo senso il rapporto tra lo Stato e il privato è fondamentale. Forse bisogna ritrovare anche su questo fronte dei nuovi rapporti più costruttivi. Sicuramente uno dei concetti chiave dei decenni che abbiamo di fronte, sono più di uno, ma uno di questi è certamente pubblico-privato, il rapporto pubblico-privato, trovare delle dimensioni, degli assetti che siano più sostenibili rispetto a quelli che sono attualmente in essere e che vanno appunto dall'avidità che sappiamo ha generato determinati processi o alla deresponsabilizzazione, allo scaricare sullo Stato tutta una serie di costi. Gli italiani su questo hanno qualche responsabilità, lo sanno tutti, tant'è vero che grandi sommosse sociali pur in questo momento di difficoltà non ci sono. Come il soggetto privato, l'individuo si pone rispetto alla comunità di appartenenza e a quelle con cui interagisce, certamente ha molto a che fare con la green economy e con la soluzione dei problemi ambientali. Quindi tecnologia da una parte e dall'altra riflessione sull'individuo e su come ciascuno di noi vive. Certo, fiducia sulla persona, richiamo alla responsabilità di una persona, ma anche richiamo a uno Stato che deve dare la libertà, dare un ambito in cui le persone possono esprimersi responsabilmente all'interno della società e quindi senza dettare delle linee guida, senza dettare delle linee ideologicamente prefissate e decidere quali sono gli interessi delle persone, ma richiamare tutti a una responsabilità comune. Questa è la cosa forse più difficile. Beh, c'è l'amico comune Piero Bassetti, che piace richiamare qui, che è stato ospite di quella trasmissione nei mesi scorsi. Amico comune che da tantissimi anni, dalla battaglia della 580 sulla legge delle Camere di Commercio, sul ruolo delle istituzioni, non è l'unico, ma certamente in Italia è stato molto attento a questi temi. Cosa significa oggi lo Stato, l'ordinamento statale, come organizzare i rapporti fra gli individui all'interno di una comunità, è parte della sfida. Certamente lo Stato, diciamo, papà e mamma, è finito. Certo, per fortuna. Per fortuna. Uno Stato arcigno e cattivo non lo vogliamo più. Si tratta di comprendere mese dopo mese, anno dopo anno, quali assetti nuovi trovare. Ecco, abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di Transparency International, abbiamo parlato del premio Giorgio Ambrosoli, abbiamo parlato di green economy, di green business sull'ecologia. Che cosa abbiamo dimenticato dell'impegno di Paolo Bertaccini Bonoli? Ma una passione che può essere, visto che appunto opero in università, vicino a tanti colleghi che in università cercano di svolgere il loro compito in un momento delicato, perché sappiamo... Docente anche, mi sembra, all'Università di Bergamo. Di Bergamo. Di che cosa? Assisto e affianco l'epistemologo Gianluca Bocchi, quindi filosofia della scienza, un tema un po' particolare, dove però la chiave che a me piace qui in questa trasmissione condividere con gli ascoltatori è il collegamento fra il mondo dell'università e il mondo dell'impresa, intendendo per impresa anche tutto il corpo sociale. Il sapere a disposizione del fare e il fare come fonte per il sapere. Ecco, l'università ha una grande responsabilità in questo senso, deve dare ai giovani una motivazione, una logica, una speranza verso il futuro. Come vede i giovani di oggi? Siamo noi che ovviamente, che ormai cinquantenni, sessantenni, settantenni, anche i quarantenni ormai. Beh, non esageriamo, fermiamoci ai sessantenni. Fermiamoci ai sessantenni, ma il ruolo lo svolgiamo un po' tutti. Il nostro Presidente della Repubblica non è un ragazzino. È solo un diversamente giovane. È un diversamente giovane, mi sembra un'ottima definizione, la teniamo per buona per noi via via che gli anni passano, ma certamente dai giovani bisogna imparare, bisogna metterli in posti di responsabilità. È una battuta che può servire. Io dico che per una serie di ragioni i quarantenni, i cinquantenni di oggi sono, e lo dicono tutti i riscontri internazionali, sono troppo lontani dai luoghi di decisione, nella media, naturalmente ci sono le eccezioni. Spetta, io sono quasi cinquantenne, spetta a noi avere quell'equilibrio per saperci tirare fuori di coinvolgere invece i giovani, cioè prendere atto che la nostra generazione, quindi parlo anche ai quarantenni e ai cinquantenni, per carità non si nasconde, abbiamo le nostre ambizioni, però bisogna avere il coraggio di coinvolgere i ragazzi fin da ventenni nei luoghi di decisione, accompagnandoli, proteggendoli un po', in modo tale che a 30-35 anni siano in grado di governare e decidere le cose. Ecco, si tratta sì, non tanto di tirarsi fuori, quanto di farli entrare anche loro, di farli entrare, di farli accomodare, forse di guidarli fin quando possibile, ma di non chiudere degli spazi, di aprire degli spazi ai giovani, di essere convinti che i giovani possono veramente avere una grande capacità, una grande potenzialità, oltre che ad avere maggiore fantasia e anche maggiore abilità tecnica. E quindi i giovani sono la nostra speranza, poi indubbiamente hanno loro la responsabilità di portare avanti questa realtà, ma diciamo noi dall'altra parte, anche se non è giusto forse fare delle barriere, abbiamo un'altrettanta responsabilità di dare fiducia ai giovani. È indispensabile, non c'è altra strada. Ecco, concludiamo con questo, con questa speranza, con questa battuta di ottimismo verso i giovani che sono il nostro futuro, che sono qualcosa a cui noi dobbiamo sicuramente qualcosa. Forse le generazioni che ci hanno preceduto e le nostre generazioni hanno caricato sui giovani un peso molto forte. Pensiamo al debito pubblico, dobbiamo ridare ai giovani qualcosa e la cosa più importante è ridare a loro la speranza. Grazie a Paolo Bertaccini Bonoli di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Peter Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Grazie, buon pomeriggio e buona domenica ancora a tutti.